proprio necessario che lo faccia. Mi dispiace, mia cara, ma devi proprio. Ma papà, io non lo amo. Mi dispiace, Vespa, ma è l'ultimo principe rimasto nella galassia. Amatissimi figli, siamo tutti qui riuniti in questo fausto giorno di Gaudio, nel quale la principessa Vespa, figlia di Re Rolando, passa in questo momento davanti all'altare, imbocca la corsia centrale e con passo sicuro semina il resto del corteo. Fermatela! Qualcuno fermi! Dalle nostre labbra nella speranza che noi gli si dia la risposta esatta di quest'oggi e invece fanno benissimo. Che gliela diamo. Che gliela diamo. Quindi due punticini oggi. Sì, si azzeccano certamente, come ogni giorno. Vi chiedevamo a cosa ci si riferisce con il termine diavoletto. Forse, come ipotizzato dalla soluzione A, l'appellativo amichevole con la quale le rockstar chiamano le loro groupies. Ehi, piccola diavoletto, vieni qui. Ipotesi suggestiva, sì, ma errata. Errata, no, quindi non è quella giusta. E allora forse il diavoletto è lo storico pub newyorkese dove si esibirono le prime band newyorkesi di punk? Ipotesi altrettanto suggestiva, ma altrettanto errata. Vuole ricordarsi a quale club ci si riferiva? Per esempio al CSCH. È qui che la volevo cascare, al CBGB's. CBGB's, i BGZB, dove si sono esibiti anche i BG's. Sì, va bene, chiudiamo allora segnalandovi che diavoletto è il soprannome della chitarra modello SG. Si chiama così per via degli spigoli che ha in alto la chitarra, che assomigliano a un bel par de corna. Segnaliamo che anche in America talvolta si usa questo soprannome europeo e la chiamano la Divoletto. Senta, a proposito di storpiature, sa che una volta in California ho letto in una pizzeria calazzone, al posto di calzone, c'era scritto il calazzone. Il giovanotto diceva, do you like calazzone? No, I don't like calazzone. Grazie. Abbiamo capito. Yeah, due bei punticini per chi ha indovinato, zero punti per chi ha sbagliato. Evviva il calazzone! Thank you. Hell's Bells, le campane dell'inferno che suonano a ritmo di AC/DC. Ah, solo noi di Rock FM vi curiamo con questa spinta. Martedì 13 di novembre, 8:37 minuti primi. State ascoltando Pane, Burro e Rock and Roll con l'Ariele Frick e Spadino. Devo iniziare quest'ultimo blocco di diretta purtroppo con una errata corrige nel corso dell'ultima mezz'ora di diretta. Insomma, abbiamo fatto sapere che i dati Audiradio ci stanno dando ragione, l'ascolto di Rock FM sta crescendo e ci siamo complimentati tutti, parapim parapam, e mi è anche scappato che abbiamo battuto Radio Rock di Roma. Ecco, forse ho esagerato nel dire battuto, diciamo che ci siamo avvicinati molto, ecco, faccio un'errata corrige. Gli amici romani sono ancora un po' davanti, ecco, dai, devo confessarla tutta, è stato un momento così di eccesso di ottimismo, però siamo lì, siamo cresciuti tanto da un anno a questa parte. Qualcuno dice di non scherzare con Mancinelli. Alba, credo tu non abbia intuito la comunicazione che avevamo dato. Abbiamo anche proposto un giorno nel quale bigiare tutti insieme, e Elena, 13 anni, e la mamma Debora ci stanno. Buona giornata. Complimenti, mamma Debora, complimenti per l'educazione della piccola tredicenne. Educazione rock, va bene. Dovete avvisarmi quando passate questi pezzi, altrimenti salto l'uscita della tangenziale. Sai quante volte è capitato a me? Prima parlate della Diavoletto e poi colpite con gli AC/DC. Sergio da Ravenna, siete dei furbini. Sì, un po' è vero, giochiamo sporco, caro. E invece, a proposito di segnalazioni, abbiamo una segnalazione americana. Insegna vista a New York, recitava Caffè al dente. Va bene, molto bene. Two Princes, Spin Doctor. Vedo il buon Freak che si prepara per la prossima rubrica. Reparto immaginazione. E se avessero registrato così? Una follia. Potete ascoltare solo da noi. Restate qui su Rock FM, dove c'è Mr. Trombetta. Just go ahead now, and if you like to tell me, maybe

but I like them. I like even tomorrow. Okay, see you tomorrow. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Ozzy Osbourne a tenerci compagnia in questi ultimi minuti di diretta, 8:51 l'ora precisa sull'orologio di Rock FM, ma io è con grande piacere e orgoglio che vorrei dare il buongiorno ad una delle mie radioascoltatrici preferite in assoluto. Ci ascolta da Milano e si chiama Carla. Bentornata signora Carla, come sta? Bene. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dica, oggi abbiamo dato i numeri, li ha dati. Sì, sì, li ho sentiti, 4, 28, 51. Esatto. Ricordo agli ascoltatori che lei fondamentalmente ci ascolta solo perché diamo i numeri la mattina. Sì. Dica la verità. No, posso star qui solo quell'orario lì, dopo devo andare a lavorare. Esatto. Però a lei interessano molto i numeri dell'otto. No, a me mi piace, esatto, sentirli. Ok. Quindi oggi è contenta perché li abbiamo dati. Eh sì, al martedì li date. Però secondo me, Carlo, secondo me Carlo si è dimenticato di dire la città. Allora, la città la do io, vediamo. Perfetto. Se sono brava. No, lei è bravissima, signora Carla. Io mi fido ciecamente di lei. I numeri. Allora, io le do due città. Sì. Milano e Bari. E la scelta perché? Allora, perché Bitros. Sì. E Bari. E inizia con la B. A lei lo fa solo per assonanza, cioè Beatles, certo. Bari, esatto. Anche perché esatto. Liverpool non c'è come ruota. Ah, certo. Eh no, esatto, quindi e Bari. Milano, e perché li ha dati Carlo? Perché li ha dati Milano. A Milano, certo. Ok. Ma, e lei gli altri numeri che stiamo dando continua imperterrita a giocarli. Eh sì, li gioco. Però non stanno uscendo. No. Secondo me bisognerebbe. Come possiamo fare a dare i numeri giusti, signora Carlo? Niente, bisogna giocarli almeno tre volte. È quello sicuro. Ma per trovare quelli giusti, qual è la formula? Non lo so, non si come sa. Si fa, è fortuna lì. E fare i sogni, tipo, potrebbe servirci? Perché potremmo chiedere alla gente di dirci che sogni hanno fatto. Eh certo, se sono capace di smorfiare i sogni. Di smorfiare i sogni? Beh, Carlo sarà capace. Non lo so, bisogna che ce lo chiediamo. Senta un po', ma mi dica la verità, visto che ormai ci sta ascoltando da un po'. Ma un po' le piace la trasmissione? No, no, mi piace la trasmissione. Anche se parliamo sì, troppo. Anche la musica. E parlate un po' troppo, ma pazienza, è il vostro mestiere. Esatto. Senta, le auguro buon proseguimento. Ora cosa fa di bello? E adesso devo andare a fare le pulizie. Io faccio la portiera, esatto. Come vi chiami te. Qua a Milano. No, me l'ha detto Carlo che faccio la portiera. Come... certo, è lui. Ma sai che cosa ha fatto? Settimana scorsa, quando abbiamo messo fuori i numeri. Sì. Ha messo sul nome. Ovvero Carla. Sì, portiera Carla. Carla, sei matto, mi conoscono tutti. E beh, ma è importante, sai. Vabbè, ma potevo fare a meno di mettere il nome. Ma sa cos'è? Se poi questi numeri escono, sanno che è stata lei a darli, secondo me. No, quelli da lì li ho dati io, ma questi li ha dati Carlo, vediamo chi esce. Però prima. Metta che uscivano i suoi, la gente lo sapeva, poi veniva a ringraziarla. No, non vengono ringraziarmi. Se li tengono loro i soldi. Abbiamo capito. Comunque quelli là. Adesso vediamo chi esce prima. Se escono prima quelli di giovedì, esatto. Se escono prima. Lei li ha dati quelli nuovi? Sì, no, ha detto Bari e Milano. No, io ho dato le ruote. Le ruote, perfetto. Vediamo se escono, signora Carla. Se escono con noi, io divido. A parte che io non li gioco, però. Dovete giocarli. Carlo ha promesso che divide, quindi. Vediamo se le divide. Vedremo. Perfetto. Buona giornata. Buona genovese, non so se le divide. Ah, perché lui è genovese. E lui è metà e metà. Ho capito. Metà genovese, metà bergamasco. Mannaggia. Allora Carla, spero di risentirla presto, Salve, buona buongiorno, giornata. Buongiorno. We'll be right back. ed è insegnando a volare che arriviamo alla chiusura dell'appuntamento di diretta di quest'oggi. 8 e 58 minuti primi, andiamo in sigla e via. Pane, burro e rock and roll vi dà appuntamento a domani sempre qui sulle frequenze di Rock FM. Pane, burro e rock and roll, la vostra colazione preferita, la tua colazione roll, quella che dà assuefazione. Pane, burro e rock and roll, non ne troverete altre di colazioni così, solo qua, per fortuna. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Caro Garavelli, ce l'abbiamo fatta anche quest'oggi. Bravo, bravissimo. Cos'era? Era una trasmissione? Qualcosa era, di qualcosa era, però a quest'ora del mattino non riesco, nei meandri della memoria. L'attacco bravo bravissimo era già qualcosa di sentito. Senti, però, ho fatto l'errata corrige sulla cosa che avevamo superato Radio Rock. Una sì, una no. In che senso? Sul settimanale, sui sette giorni sì, sul giornaliero no. Ah, quindi un po' avevo ragione a dire che abbiamo vinto. Io comunque ho dichiarato che io non voglio superare Radio Rock di Roma, io voglio superare... Tipo, Rai? Sì, Rai 1? Sì. No, Radio 2 al massimo, beh, iniziamo da quella sotto. È più facile Isoradio, che è già difficilissimo. Guarda che difficile Isoradio. Vabbè, ma secondo me il concetto, noi puntiamo alto, poi vediamo, insomma. No, ti è sbagliato come concetto, va bene. Gravelli, buona giornata fino al mezzodì. Ok, grazie, ciao. Prego, ciao. Ehi, ciao Rogna, cosa hai fatto ieri sera? Ciao Frigo, niente di speciale, ti dirò. Ci ho provato con la topolina della gabbietta 27, ma... insomma, non c'è stata. Non ne voleva proprio sapere. Mi ero messo anche il dopopelo. Così, visto come sono andate le cose, sono tornato nella mia gabbietta e ho fantasticheggiato con i nuovi numeri delle riviste Penthouse e Rat Boy. Ah, sei andato di zampa? Beh, un po' sì. Ero tutto arrappato. E tu invece? Io invece mi sono dato a un classico della letteratura, Uomini e topi, di Steinbeck. Stai diventando coltissimo, Frigo. Mi spaventi.